Il principio di uguaglianza. L'articolo 3 della Costituzione, al primo comma, stabilisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali. Si tratta del principio di uguaglianza formale che costituisce la regola fondamentale dello Stato di diritto. Il principio in questione comporta due fondamentali conseguenze. Tutti sono uguali davanti alla legge, a prescindere dalla condizione sociale o dal ruolo svolto. Il legislatore non può approvare leggi che contengono discriminazioni fondate sul sesso, sulla razza, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali e sociali. Nel caso lo facesse, le leggi sarebbero annullate dalla Corte Costituzionale. Il divieto di discriminazione non deve essere inteso però in senso assoluto, dal momento che la stessa Costituzione prevede misure a favore di particolari categorie. Esempi ne sono l'articolo 6 della Costituzione, che impone alla Repubblica di tutelare con apposite norme le minoranze linguistiche, e l'articolo 51 della Costituzione, il quale prevede l'adozione di provvedimenti per promuovere le pari opportunità tra donne e uomini. Il principio di uguaglianza vieta, quindi, solo le discriminazioni irragionevoli. In questo senso si dice che il principio in esame si evolve in principio di ragionevolezza. Il principio di uguaglianza formale resterebbe, così, una pura enunciazione teorica, se non fosse integrato dall'impegno pratico dello Stato nel creare le condizioni di uguaglianza sostanziale. Per tale motivo, il comma 2 dell'articolo 3 della Costituzione affida alla Repubblica il compito di intervenire per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, affinché tutti i cittadini siano posti inizialmente su un piano di sostanziale parità e godano di determinate utilità sociali, quali l'istruzione, la salute, il lavoro, della possibilità di dare pieno sviluppo alla propria persona e partecipare alla gestione del paese.